Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata da Katia Caramelli. 2 anni fa, il 3 giugno del 2010, veniva ucciso in Turchia Monsignor Luigi Padovese. Una ferita ancora viva nella piccola comunità cattolica del paese, alle prese ancora con la difficoltà di ottenere un riconoscimento formale e con esso la personalità giuridica. Negli ultimi tempi però qualcosa è cambiato. Una delegazione di rappresentanti della Chiesa Cattolica per la prima volta è stata ricevuta dal Parlamento turco. Ci sono state notevoli aperture, come ci racconta il portavoce dei Vescovi turchi Ruggero Marmara. Noi abbiamo quasi più di 200 proprietà. Quindi voi avete chiesto la restituzione di queste proprietà. E soprattutto il riconoscimento. Abbiamo chiesto il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Cattolica Latina. Questo che cosa comporterebbe se arrivasse questo riconoscimento? Che la Chiesa sarebbe riconosciuta come personalità giuridica, perché oggi fino adesso tutti i stabili sono scritti al nome preti. Come sa, certo, i preti dopo molte volte quando muorono non hanno eredi. Non si può sempre provare la proprietà. Cioè ci sono grandi complicazioni, perché come non c'è una personalità giuridica non si può scrivere al nome della Chiesa Latina Cattolica. Tutti sono intestati titoli di proprietà al nome dei singoli, cioè dei preti. Diciamo che la Chiesa attualmente non esiste, la Chiesa Cattolica. Non esiste, cioè non una personalità giuridica. Cioè. Allora noi chiediamo questa personalità giuridica, già se accettano di darci la personalità giuridica, già tutti i problemi anche dei stabili sarà risolto. Noi siamo andati alla Grande Assemblea Nazionale, perché questo era per inserire le nostre richieste nella nuova Costituzione. Ma loro già ci hanno detto che non c'è bisogno, cioè che figuri nella nuova Costituzione, ci possono dare la personalità giuridica con una semplice legge. Allora questo è il fatto, cioè ancora è più semplice di quello che noi speravamo. Quindi dovrebbe andare in porto questa richiesta? Speriamo, speriamo. Per quanto riguarda la libertà di culto? Sì, abbiamo la libertà di culto all'interno delle chiese, ma chiediamo soltanto di essere riconosciuti legalmente. Come precisato, godiamo di una libertà di culto completa all'interno della chiesa, ma pensiamo che il possesso delle proprietà, la possibilità finanziaria di ripararle, non possono essere separate da questa libertà di culto e siano necessarie per poterle esercitare concretamente. Cioè, sì, c'è la libertà di culto, ma anche gli stabili fanno parte questa libertà di culto, perché se oggi continuiamo a perdere le chiese non potendo giustificare l'atto di proprietà, beh, arriverà un tempo che non avremo nessuna chiesa. Un ricordo di Monsignor Padovese. Era una persona che tutti stimavamo e la sua perdita è stata molto grave, soprattutto perché non hanno ucciso una persona, hanno ucciso quasi tutto il vicariato dell'Anatolia. Dopo la sua morte tutti aspettano un altro vescovo per poter continuare. Lo conoscevo bene perché sono il direttore della Caritas, lui era il presidente. Era un uomo di grande dialogo. Certo, di dialogo, di apertura, cultura. Ora c'è Don Willy Volonté. Quando siamo deboli è allora che siamo forti, è il richiamo dell'Apostolo Paolo ai primi cristiani. Troppi fatti in questi giorni hanno messo a nudo la nostra debolezza. La barbara uccisione di Melissa, il terremoto in Emilia, il 20° anniversario dell'assassinio di 2 magistrati e autentici servitori della nazione. Sembra che non abbiamo più risorse per far fronte alle barbarie del cuore umano e alla violenza della natura. Eppure quando la debolezza è così a portata di mano, è il tempo di essere forti. Ma dove attingere le risorse per essere forti? Nelle antiche radici della fede di questo nostro popolo scorre ancora la linfa vitale per combattere la violenza con la forza del resistente. Il volto di Massimo Bassi, il papà di Melissa, al funerale era lì in chiesa con la fotografia della figlia tra le mani per dirci la paternità ferita dal dolore eppure resistente di un padre. Abbiamo bisogno tutti di riscoprire il volto di una forte paternità che dia sicurezza al debole vivere quotidiano. Senza questa paternità forte e resistente, ha richiamato Papa Benedetto nell'udienza generale di questa settimana, è persino difficile capire la paternità di Dio. L'assenza dei padri, che purtroppo caratterizza molte famiglie di oggi, rende difficile nella vita quotidiana di tante persone persino instaurare un dialogo con Dio. Da quando esiste l'Homo sapiens, agli albori dell'umanità, ha proseguito il Papa, l'uomo cerca di parlare con Dio perché comunque riconosce in lui la sorgente di ogni paternità. Abbiamo tutti estremo bisogno di una paternità che nel momento della debolezza si presenti a noi, forse anche con le ferite del dolore, ma con la forza di un resistente che dà sicurezza.